tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, non saprei dire in tutta sincerità se fa più sensazione il primo posto della Lazio o l'ultimo della Fiorentina. Di sicuro queste sono due delle chiavi di lettura di un campionato diverso da quelli a cui ci eravamo abituati negli ultimi anni e sinceramente di un po' di aria nuova si sentiva la necessità. Mentre prenotate i vostri commenti del lunedì, partirei dalla voce dell'allenatore che comanda la classifica, che è poi anche coi suoi 65 anni il decano della Serie A, Edi Reja. Ragazzi, mi hanno detto come sono entrato allo spogliatoio, mister, mancano 24 punti, è un momento positivo, tra l'altro abbiamo fatto anche una buona gara, abbiamo concesso praticamente poco campo al Bari perché sapevamo come giocava, li abbiamo aspettati alla nostra metà campo, loro hanno avuto difficoltà, sono stati bravi i due centrali a non abboccare Kutuzov che rientrava e Barreto che tagliava, e sotto questo punto di vista abbiamo fatto una grande gara sul piano difensivo. Poi davanti abbiamo dei giocatori che ti possono inventare la partita a un momento o l'altro, così è stato. Bisogna sfruttare le nostre caratteristiche, usare l'intelligenza, saper aspettare e cercare di non rischiare. La Lazio è la squadra che guadagna più punti, mi fa notare Franco Piantanide con le sue statistiche del lunedì, più punti nei secondi tempi rispetto ai primi, più 8, e anche ieri sera con il Bari è andata così. Un'altra curiosità è che il Chievo, va bene che rimane il Chievo, ma insomma la sua bestia nera è indubbiamente il Milan, perché un colpo fuori casa ormai l'ha fatto praticamente con tutti in questi 10 anni, invece in casa del Milan in 10 partite solo 3 pareggi e le altre 7 sono sconfitte. Da Cagliari una curiosità interessante: l'Inter è la squadra che ha mandato in gol meno giocatori, appena 3, Eto'o, Milito e Lussio, fermo restando che in questo momento di tanti infortuni per la rosa di Benitez credo che un semplice raffreddore a Eto'o rappresenterebbe un problema insormontabile. Tre giocatori in a rete come l'Inter li ha avuti soltanto il Cesena, tutti gli altri hanno segnato in maniera più tutte le altre squadre in maniera più articolata, a cominciare dalla Juventus, che ha il miglior attacco della Serie A e è andata in gol con 9 giocatori diversi. Si sta parlando della settima giornata, quindi insomma di una fase ancora iniziale di stagione. Le partite giocate non sono tante, ma non sono poi nemmeno così poche per cominciare a intuire qualche linea di tendenza. Ed è significativo per esempio il fatto che se hanno vinto le tre grandi tutte insieme, le tre grandi storiche, cioè Inter, Juventus e Milan, è anche vero che hanno continuato a vincere la Lazio, ha ripreso a vincere il Palermo, il Napoli ci è andato molto vicino, poi non avrebbe meritato la vittoria, ma insomma Cavani, che pure è uno dei grandi emergenti del campionato, si è mangiato il gol della vittoria a tempo scaduto. La stessa Roma non è ancora tagliata fuori, perché non ci sono molti punti di distacco, c'è un equilibrio, ripeto, abbastanza inedito. Allora sentiamo i commenti degli allenatori principali su questa giornata. Benitez sulla vittoria dell'Inter. Penso che loro hanno avuto 2 o 3 situazioni di pericolo, noi abbiamo avuto 2 o 3 lo stesso, abbiamo avuto controllo della partita e con giocatori che arrivano dopo infortuni penso che era importante vincere. Sì, sempre se vuole fare di più, ma penso che abbiamo fatto una buona partita. Sì, sono soddisfatto, ma sempre vuole fare di più, questo è chiaro, no? Oggi penso che se facciamo il secondo gol loro devono andare più avanti, possiamo avere più spazio per il contrapiede. Alla fine abbiamo avuto 1 o 2 problemi perché abbiamo perso la palla, ma la squadra aveva il controllo, che questo è sempre importante quando ha una squadra con giocatori di qualità, si ha il controllo della partita, dopo si può fare gol. Complimenti a Reja, ad Ansu ex commilitone a Orvieto, scrive Antonio da Milano. Beh, penso che lei, Antonio, abbia buona memoria, perché commilitone di Reja, insomma, qualche annetto dovrebbe essere passato così a grandi linee. E c'è già un ascoltatore collegato, ma io prima sentirei la rilettura della vittoria molto brillante della Juventus sul Lecce, affidata del Neri. questi incontri non fanno altro che dimostrare questa aggregazione che c'è, questa voglia che c'è di far bene della Juventus. E poi i ragazzi in campo stanno dando il meglio di loro stessi in questo momento. Direi che la crescita generale in tutte quelle che sono le componenti che possono migliorare la prestazione della domenica. Ma lui era così anche l'anno scorso, penso, perché poi le annate nascono non benissimo e magari si va incontro a delle prestazioni non all'altezza. Ma io pensavo che lui potesse giocare in questa maniera, desse un contributo importante, e devo dire che fino adesso, insomma, mi sembra che stia facendo in pieno il proprio dovere. Krasic è certamente l'uomo nuovo della Juventus, anche perché è biondo, no? E come è noto, poi c'è un'antica tradizione juventina da questo punto di vista, è biondo e quindi si nota molto di più, ma ho l'impressione che il salto di qualità, oltre che con Krasic, si faccia con la quantità di Melo in mezzo al campo, che non era nemmeno poi così da buttare via lo scorso anno, e con la qualità di Aquilani, che potrebbe essere la chiave di volta forse della stagione juventina, sempre che mantenga questi livelli anche da un punto di vista fisico, perché non ha avuto pochi problemi in carriera sin qui il talento ex romanista. Massimo ha chiamato la provincia di Monza, buongiorno. Senta, io volevo fare una piccola considerazione. Qualche settimana fa ho ascoltato l'intervento del nostro amico Giovanni Galeone, sì, il quale diceva appunto che la Juventus quest'anno, con il rischio di tirarsi dietro qualche altro nemico tra i tanti, sarebbe arrivata, diciamo, in una posizione tra la settima e l'ottava rispetto all'anno scorso, che magari aveva dato qualche posizione in più. Ora, con tutto il bene che posso volere al Galeone, grandissima persona, da tifoso juventino ovviamente mi auguro che non sia così, però avendola vista giocare, diciamo, in queste ultime tre partite, parlo della Juventus, tra Manchester City, Inter e la partita di ieri, a quale faceva riferimento anche lei, ottima prestazione, volevo chiedere la sua opinione. E ultimissima cosa, mi perdoni, un augurio più che altro che faccio al buon Enzo Berzotti di potersi rimettere il più presto possibile, potervi rivedere di nuovo in televisione. Sì, grazie Massimo, questa la ringrazio del pensiero, ma insomma soprattutto trasmetto volentieri i suoi auguri a Enzo. Non mi sembra un'ipotesi in agenda. Ne parliamo dopo della Juventus, anche perché siamo arrivati già al primo intervallo, ma perché è già collegato con noi l'ospite della seconda parte del programma. Poi ci sarà poi tutto il tempo per altri commenti e per altri interventi vostri, che è l'allenatore del Bari, Giampiero Ventura. Adesso il traffico. Siamo collegati ora con l'allenatore del Bari, Giampiero Ventura. Buongiorno Ventura. Buongiorno a tutti. Senta, non è un grande lunedì, a occhio e croce. Bisogna chiamare magari due settimane fa o tre, era meglio. No, ci facciamo così, che ci risentiamo tra un'altra. Ci risentiamo tra un'altra settimana o due, non di più. Non è una buona giornata per il Bari, al punto che mi tocca proprio, prima che del suo Bari, per ovvia ragione d'attualità, domandare della Lazio, perché più passano le giornate e meno una squadra che dopo sette partite è in testa con un po' di distacco, meno è una sorpresa. Ma obiettivamente non è una grande sorpresa. Io ho seguito un po' la Lazio perché dovevo incontrarla, credo che sia in testa meritatamente. Mi ha fatto una buonissima impressione. Cioè, l'anomalia secondo me era la posizione della Lazio o il campionato della Lazio dello scorso anno, quello era anomalo, non certamente questo. Ora il primato non so quanto durerà e se potrà durare, ma che sia una squadra in grado di potersi giocare qualche piazzamento importante ne sono assolutamente convinto, dopo averla vista dal vivo, nel senso che è una squadra che dove c'è dentro tanta qualità, perché il Mauri attuale è di altissimo livello, Zarate, Floccari, Hernanes, Ledesma, Matuse, ne hanno tantissimi, c'è tanta qualità, e la qualità abbinata alla disponibilità, quando vedi Zarate che insegue per 30 metri il proprio difensore, o quando vedi Floccari che va a coprire Hernanes con uno scatto di 30 metri, è evidente che c'è grande disponibilità, quindi di solito quando c'è grande disponibilità abbinata alla qualità produce sempre risultati importanti. Senta, lei ci ha già raccontato in poche parole come gioca o come ha giocato ieri sera questa capolista in attesa. Vista da fuori, vista dalla TV, la sensazione è di un calcio tradizionale, però che non dà molti punti di riferimento e per questo crea problemi agli avversari. In parte sì, perché sia Mauri, sia Hernanes e anche Ledesma di leggere le varie situazioni, cioè nel momento in cui magari vogliono fare una cosa e vedono che non è possibile, immediatamente riescono a leggere dov'è lo spazio, le vanno a cercare, poi una volta che sono tra le linee hanno veramente tanta qualità. Credo che il Bari ieri, nonostante tutto questo, perché poi il risultato determina anche molte volte il giudizio, il Bari ieri, io ho visto la partita ad esempio della Lazio a Chievo, aveva vinto pigliando due pali, 4-5 palle gol, l'avevo vista a Firenze, aveva di nuovo straripato da tutte le parti. Ieri gli abbiamo concesso, noi abbiamo preso due gol, abbiamo perso, quindi onore ai vincitori, ma Cile non ha fatto praticamente neanche una parata. Cioè, secondo me avevamo chiuso benissimo gli spazi. Il primo tempo sembrava un primo tempo statico, ma era un primo tempo di grande spessore, secondo me tattico, perché tattico. Il primo che sbagliava pagava. È vero che la Lazio prima in classifica è venuta a Bari e il giocatore più offensivo, Floccari, era nel cerchio di centrocampo, quindi significava 11 persone alla loro metà campo. Quindi da un lato è sinonimo che il Bari, tutto sommato, in parte era anche un po' temuto, e dall'altra è la maturità. La seconda considerazione, proprio perché Cile non ha fatto neanche una parata e la Lazio vince 2-0, vuol dire che questo non è casuale, vuol dire che c'è maturità, c'è cinismo, ci sono tutte quelle componenti che permettono alla squadra di ritagliarsi uno spazio importante, secondo me. Sai cosa ho pensato io vedendo quel primo tempo? Ho pensato a una cosa molto lusinghiera per il Bari, secondo me, cioè che il suo Bari l'abbiano studiato e che adesso l'avevo già notato in qualche altra partita di questa stagione iniziale, e che adesso gli avversari si facciano risucchiare un po' meno di un tempo da quel vostro palleggio arretrato e brevettato che è stata la caratteristica principale, mi pare, e comunque una delle grandi novità tattiche di queste ultime stagioni. Ma sì, l'anno scorso chiaramente era più facile per un motivo semplice: uno, perché il Bari era andato a assicurare retrocessa, quindi venivano tutti qui per pensando di trovare terreno fertile, quindi gli spazi erano sicuramente maggiori. Due, questo lo dico anche ai miei giocatori, c'era una voglia di mettersi in discussione, una voglia di crescere, una rabbia feroce nel fare le cose. Oggi ci sono due situazioni leggermente diverse, le squadre concedono molto meno spazio, quindi occorrerebbe un granello di adrenalina in più, però il secondo anno le dicono tutti che è sempre molto più difficile, perché inconsciamente magari si dà per scontato determinate cose e quindi si rischia di farlo magari con un pizzico di sufficiente in più. Obiettivamente poi ci sono anche le situazioni anomale, se andiamo a vedere i due gol che ha fatto la Lazio, no? Uno è un passaggio di Mauri che ha attraversato il campo per 40 metri, è passato in mezzo alle gambe a Gazzi, che ha messo fuori causa Salvatore Masiello, ha liberato la sua fascia, cioè quel passaggio ne passa uno in 150.000. Il secondo, un doppio rimpallo che va a finire su Flocker, che è stato intuitivo, però a sua volta ha fatto un pallonetto involontario, cioè vuol dire, se vai a vedere... No, certo. È un momento così, no, perché secondo me io ero assolutamente, fine primo tempo, ero assolutamente soddisfatto dell'interpretazione della partita. Così come esempio domenica scorsa, noi, che poi la Serie A anche questa, domenica noi abbiamo giocato a Genova, giocare contro il Genova non è mai facile, abbiamo messo 4 volte l'uomo solo davanti al portiere e non hai fatto gol, e poi prendi gol al 96esimo. Da un lato ci dice che in Serie A se hai 4 palle gol e non le butti dentro rischi di perdere, poi paghi. Dall'altra è che obiettivamente è un momento che non ci gira neanche tanto bene, se vado a vedere. Però vabbè, il problema di fondo è che noi abbiamo un obiettivo ben preciso, che è una situazione in cui ci troviamo, che con 8 punti ne mancano 32, mi pare di capire. C'è anche però un dato consolatorio, che guardando le classifiche comparate, i punti sono gli stessi di un anno fa, perché sono 8, i gol fatti sono gli stessi e sono 6. Il problema è che evidentemente c'è un po' meno di qualità in difesa, anche se lei farà fatica per ovvie ragioni a confermarlo, perché l'altro anno eravamo a 4 gol presi, adesso siamo a 11. Sì, su questo incide terribilmente i 4 gol di Milano, sotto tanti aspetti, però è un dato di fatto. I numeri io di solito no, sono incontestabili, no? Quindi è un dato di fatto che noi abbiamo preso. Ripeto, ci sono anche momenti, no? Ci sono momenti, noi l'anno scorso potevamo anche subire tre palle gol e Gile faceva tre parate strepitose, sì, e risultava che ne avevamo preso zero gol. Oggi Gile non mi ricordo che abbia fatto l'inizio del campionato oggi una parata, ma abbiamo una percentuale direi quasi del 100%, cioè sei tiri, cinque gol, quattro tiri, tre gol, una cosa di questo genere. Quindi, però è un dato di fatto che sotto questo aspetto è una riflessione che dobbiamo fare. Sì, anche perché è il campionato dell'equilibrio. Io lo personalmente lo trovo molto più bello degli ultimi, perché sembra quasi la Bundesliga fino adesso, no? In cui non dico che tutti possano vincere, ma tanti, e in cui grandi squadre di grandi piazze come la Fiorentina, per esempio, possono anche rischiare di retrocedere. Quindi c'è questo enorme equilibrio. Il bello dell'equilibrio è che ti basta poco per andare in alto, ma sventuratamente ti basta poco anche per ritrovarti risucchiato. Quindi mi pare che l'obiettivo vostro dei 40 punti sia tuttora un progetto di estremo realismo, insomma, di grande saggezza. No, ma è fuori dubbio che io sono assolutamente convinto che noi possiamo raggiungere l'obiettivo, ma ripeto, siamo veramente, il campionato è praticamente iniziato adesso. È iniziato adesso perché le grandi cominciano a delinearsi un po', perché c'è stato questo inizio. Di solito le neopromosse, le prime partite fanno sempre molto bene, perché c'è entusiasmo, c'è voglia di fare, c'è grande umiltà, c'è voglia di mettersi in discussione, quindi è partito così il campionato. Poi basta guardare la classifica, nel giro di 4 punti ci sono le prime e le terz'ultime, mi sembra una cosa di questo genere. Certo, è un campionato che sta iniziando adesso, bisogna solo stare... avere dentro la consapevolezza delle tue qualità, dei tuoi difetti, cercare di lavorare per smussare i secondi e cercare di esaltare i primi, quindi come abbiamo fatto il resto l'anno scorso. Però è evidente che è un campionato diverso dall'anno scorso per quello che concerne il Bari, è un campionato diverso in generale, per quanto concerne il Bari è un campionato che sarà sicuramente più difficile. Le chiedo un attimo di pazienza, una breve pausa per aggiornare i mercati e sentire come vanno le borse, poi torniamo immediatamente in onda. Giampiero Ventura ci ha aiutato sin qui a definire un po' la dimensione di questa sorpresa Lazio, che per lui appunto è una sorpresa relativa, ce lo ha spiegato dettagliatamente, e a dare una caratura al suo Bari. Mi resterebbero tre o quattro domande di attualità più generale. Dicevo prima che è un campionato che sembra la Bundesliga, l'equilibrio eccetera, ma di bello anche questo, che mi pare accanto ai protagonisti più attesi, che sono Ibrahimovic, che sono Eto'o, anche se magari non a questi livelli estremi, insomma c'è qualche renaissance, direbbero quelli che parlano bene, tipo Aquilani. C'è qualche conferma a livelli molto alti, tipo Pastore, tipo Cavani, e ci sono sorprese assolute per noi, per la nostra platea, come Hernanes. Lo trova anche lei un campionato più divertente rispetto a quello delle ultime stagioni? Vabbè, assolutamente sì. È più divertente anche perché, essendo più equilibrato, c'è anche il piacere magari di vedere partite senza sapere già praticamente il risultato. Direi che c'è stata più che una buona infornata, una buona conferma delle qualità di questi giocatori, che sono quasi tutti giovanissimi quelli che lei ha nominato. Sì. La conferma che questa è la direzione su cui andare, al di là dei nomi roboanti che ci possono ogni tanto si leggono, ogni tanto spesso si leggono, sì. Cioè, sinceramente Cavani è stata una grandissima intuizione, Pastore secondo me è un giocatore straordinario, e ci sono altri due giocatori nel Palermo che secondo me piano piano usciranno fuori e hanno qualità assolute, ma Hernanes secondo me ha delle potenzialità estreme, anche se secondo me a margine di miglioramento. Ma io, hai fatto nomi di giocatori stranieri, io vedevo ieri Mauri veramente di uno spessore in questo momento straordinario. Un giocatore che gioca in quattro ruoli in davanti, può fare il trequartista, può fare l'esterno, può fare tutto, può fare anche la punta, è vero. In qualsiasi zona di campo gioca, legge. Credo che sia andato in nazionale meritandosela, perché è veramente un giocatore di spessore assoluto. rispetto a un campionato dove tutto sommato si vede anche giocare di più al calcio rispetto all'anno scorso. Sì. E questo è uno dei primi dati piacevoli, no? Direi di questo avvio di stagione. Il secondo, sempre a parere mio, ma insomma mi pare abbastanza largamente condiviso anche da molte lettere e mail che ho trovato stamattina arrivando in ufficio, è questo, finalmente questo interventismo di Tagliavento, no? In fondo non ci voleva poi questa, no? questo coraggio incredibile o chissà quale rincorsa per decidere che una volta più che un'altra, è successo ieri e speriamo che da ora in poi questo faccia precedente definitivo, arrivano i versi della scimmia sugli spalti, l'arbitro, anzi il vicequestore, perché poi a determinare tutto di quello che è successo a Cagliari è stato il vicequestore, segnala all'arbitro questa cosa e l'arbitro dice fantastico, io fischio e interrompo la partita fino a quando non smettono. Io lo ritengo, mi pare finalmente sia un segnale di civiltà. Come lo si vede, come lo si legge dal campo invece da una panchina? Io la vedo, io appartengo ancora alla vecchia generazione e sostengo che io lo vedo benissimo, ma io sostengo che dovremmo le regole ci sono, se noi le avessimo sempre fatte mantenere, le regole scritte, le regole del buon senso e della correttezza, se venissero sempre fatte rispettare probabilmente saremmo o vivremmo o discuteremmo di situazioni completamente diverse da quelle attuali. Nel calcio e nella società probabilmente vivremo un pochino meglio. La domanda conclusiva è ad un genovese, come ha vissuto e cosa le è rimasto dentro di quel martedì nero del calcio italiano? Ma te l'ho detto, io appartengo a un'altra generazione, una profonda tristezza, dispiaciuto anche per Genova, ma dove magari parlarsi che ci sia anche delle responsabilità, non lo so, però è una profonda tristezza. Io, il calcio per me è ancora quello del gesto tecnico, è quello della rovesciata di Gigi Riva a Vicenza, il calcio è fatto dei tunnel di Sivoli, il calcio è fatto, sto parlando della preistoria, però sta parlando della nostra generazione, no, però il calcio era il piacere di vedere qualche cosa che solo alcuni riuscivano a dare. Oggi il calcio è Ivan che ha avuto più pubblicità, Ivan sui giornali che neanche Papa Wojtyła ha avuto. Quindi obiettivamente è una cosa che faccio fatica, continuo a fare fatica a capire, ripeto, profonda tristezza. La prima cosa che mi viene da dire è profonda tristezza per il calcio e per lo sport. Grazie Ventura. Grazie a voi. Grazie davvero di questa conversazione. Scrive Lorenzo da Firenze: che ne dice di fare i complimenti all'arbitro Tagliavento che per la prima volta ha sospeso una partita per 3 minuti a causa dei cori razzisti cagliaritani contro Eto'o? Dico che glieli faccio volentieri, ma che ne sono arrivati molti altri stamane per iscritto. Per esempio Mario Rosato ha scritto da Cornedo Vicentino per dire la stessa cosa. Tramite lei vorrei inviare i complimenti all'arbitro Tagliavento, e lo dico da interista, precisa questo signore, che non si era scandalizzato nemmeno lo scorso anno quando questo bravo arbitro espulse 2 giocatori interisti applicando anche in quel caso il regolamento. Stesso concetto firmato da Nicola Lassandro da Santeramo, provincia di Bari. Quindi evidentemente uno stato d'animo condiviso indipendentemente dalle latitudini. E arriva una notizia, e per la verità non arriva, nel senso che non è ancora stata battuta dalle agenzie. L'abbiamo trovata grazie alla segnalazione di un lettore da blog, quindi pensate un po', di un ascoltatore da blog, ascoltatore lettore, che ringrazio evidentemente, e poi il riscontro c'è sul mattino.it. Allora, stanotte vandali hanno danneggiato il San Paolo di Napoli. È successo tra la serata e la nottata, non si conosce ancora, secondo l'assessore allo sport del Comune di Napoli, non si conosce ancora l'esatta entità dei danni, né si è capito da dove sono entrati, però le prime informazioni parlano di un vero e proprio raid vandalico all'interno del San Paolo, con le 2 porte del campo distrutte, almeno una delle panchine, ma soprattutto pare che abbiano reso impraticabile una parte del terreno di gioco. I responsabili della sicurezza hanno bloccato uno di questi invasori, che non saprei come altro chiamare, che è addirittura un 14enne, niente meno. Le ipotesi che si fanno sono le vendette di una banda ultra, la ritorsione di qualche napoletano deluso, una gratuita bravata teppistica, ma insomma io temo anche qualcosina di più e di diverso. Se avremo altre informazioni nel corso del programma, evidentemente ve le daremo. Ricordo soltanto che siamo lunedì pomeriggio e che giovedì sera il Napoli riceve il Liverpool in Europa League, e lunedì prossimo è previsto sempre a San Paolo Napoli-Milan. Ha chiamato Mario da Teramo, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore. Senta, io sono un tifoso viola e volevo fare alcune considerazioni, però non so se sono state già esternate da qualche altro ascoltatore. Oggi no. Ma, allora, io volevo dire questo. La Fiorentina di quest'anno è la stessa squadra dell'anno scorso, con in più D'Agostino. Sì. E in meno Jovetic. Va bene? Sì. A questo punto D'Agostino non l'abbiamo avuto e Jovetic nemmeno. Poi, se consideriamo il campionato di quest'anno, dalla partita di Napoli, dove abbiamo giocato benissimo, eravamo al completo. E lì ci ha pensato l'arbitro, non faccela vincere. A Lecce ci hanno negato un gol regolare, e quindi se lei mettesse 2-3 punti in più alla Fiorentina ne avrebbe 8 di punti. Sì, magari gli leviamo anche quel paio, no? Con un rigore compiacente che è arrivato subito dopo, mi pare, in una partita in casa, e che ha sbloccato la situazione. Quello lì non lo contiamo, Mario. Di vicende contro l'abbiamo sempre avuto. Come no? Parliamo pure già dell'anno scorso. Non conosco, Mario, non conosco un solo tifoso. Però c'è un'altra cosa. Domenica noi stavamo a Genova senza centrocampo e a 10 minuti dalla fine avevamo 8 punti come la Roma. E quindi? Per cui dico, non è il caso di fare, non da parte sua, ma speriamo che a Firenze qualcuno ascolti qualche telefonata, perché non mi sembra il caso di creare grande allarmismo, perché la Fiorentina non retrocederà sicuramente. Ma io credo che nessuno stia sostenendo che la Fiorentina retrocederà. Tutti stiamo prendendo atto con molta curiosità e invece con allarme i tifosi fiorentini che questa squadra è in fondo alla classifica, che è una delle, dicevo all'inizio, che così come è molto sorprendente che in testa alla classifica ci sia la Lazio, è almeno altrettanto sorprendente che in coda ci sia la Fiorentina. Alberto ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzene. Dica. Volevo chiedere appunto se secondo lei la Lazio potrebbe avere delle chance per vincere lo scudetto, nonostante Rea si sforzi per predicare il contrario, però di razziare un pensierino lo stiamo facendo. Lei cosa ne pensa? Grazie. Ma io sento gli opinionisti, insomma, che hanno giocato a calcio eccetera, che stanno galleggiando tra la quarta e la sesta posizione come proiezione futura, come proiezione definitiva per la Lazio. Io credo sarebbe già un buon risultato. Attualmente la Lazio sta giocando molto, ma molto bene, e sta meritando di più, sta dimostrando di meritare di più. Cioè, dopo la falsa partenza della prima giornata ha trovato la quadratura, ha trovato gioco, ha trovato fantasia, uomini, lo raccontava benissimo prima Ventura, no? Uomini in grande forma, forse ai massimi della loro carriera, per esempio Mauri, e Hernanes è un grande giocatore, questo è indiscutibile. Il telaio è forte, guidato con saggezza, davanti ci sono risorse anche per fare gol. Poi bisogna vedere quanto dura il momento magico, insomma, questo è evidentemente un momento magico, bisogna vedere quanto dura. Se durasse per parecchio, la Lazio potrebbe anche ambire a qualcosa di più. Se invece tutto a un certo punto si ridimensionerà, io credo che se ci sono defezioni in alto può arrivare in zona Champions League, se no subito a ridosso. Sentirei ancora Marco da Monza, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Una curiosità, mi sembra di aver percepito in Eto'o un certo imbarazzo ieri durante la sospensione della partita, tant'è che mi pare di aver visto il labiale scuotendo la testa e dire ma giochiamo. Ecco, sarebbe così una curiosità, sarebbe interessante chiedergli se è vero e perché, così in un contesto generale, ecco. Lei non l'ha notato, no? No, assolutamente no, non ho notato, anche perché non ci ho molto badato, ma sinceramente credo, posso anche credere che all'imbarazzo del giocatore, perché in fondo vedrei sospendere una partita per un provvedimento adottato involontariamente per causa sua, non so se riesco a spiegarmi, credo che sia un fatto abbastanza imbarazzante. E poi non è nuovo episodi di questo genere, perché già gli era successo in Spagna a Saragozza, mi pare, quando giocava con la maglia del Barça, e però insomma alla fine, se ha provato anche un po' l'imbarazzo, beh, ragione in più per apprezzarlo, no? Perché evidentemente non insomma, si sentiva a disagio, ripeto, pur non avendo alcuna colpa, anzi essendo vittima in quel momento di una sciocchezza o bestialità, chiamatela come volete. L'importante è che ci ricordiamo del traffico. Oggi penso di conoscere su che cosa si sia cimentato Nicola Filippone per il 18 ottobre 68, e immagino proprio che si tratterà della, credo in assoluto, la più grande impresa della storia dell'atletica di tutti i tempi. Sentiamo. Sembra ieri. 18 ottobre 1968. Alle Olimpiadi di Città del Messico è una giornata da incorniciare per l'atletica leggera, merito di due campioni statunitensi che vincono le rispettive gare, fissando record destinati a durare per due decenni. Nel salto in lungo trionfa Bob Beamon, che si impone con la misura di 8 metri e 90 centimetri, un record mondiale che resisterà fino al 1991. Lee Evans invece si aggiudica i 400 metri piani con il tempo di 43 secondi e 86 centesimi. Il suo primato durerà fino al 1988. Quindi ricordavo solo a metà le prodezze, le imprese storiche di quel giorno furono due a Città del Messico, però quella di Beamon fu quella veramente che fece a chi visse quelle Olimpiadi, che fu qualcosa che era difficile accettare, era difficile credere. Continuiamo a saltare un po' di palo in frasca, come spesso accade a lunedì. Per esempio Andrea da Pisa scrive: un saluto a Ventura e grazie per la fantastica annata che ci fece vivere a Pisa. Un altro messaggio, Mirko scrive: Felipe Melo lo scorso anno non era da buttare, ma se lei e qualche altro sapientone lo avete massacrato per tutta la stagione, mamma mia, tutti pronti a salire sul carro del vincitore. Guardi, io credo di avere anche alcune registrazioni dello scorso anno in cui massacrare non credo sia la parola esatta, ma se c'era da dubitare dei 25 milioni di euro spesi per Diego ero il primo, ma se c'era da dubitare su quelle spese per Filippo Melo non ero tanto di quell'avviso, e ho sostenuto più di una volta, proprio discutendo con tifosi juventini, che secondo me se uno è il perno del centrocampo del Brasile, insomma, prima di giubilarlo o di trattarlo come lo trattavate voi tifosi della Juventus, io ci avrei pensato tre volte. Dopodiché lei dice sul carro del vincente de che? Perché cosa ha vinto Melo nel frattempo? Mi faccia capire. Anzi, per dimostrarle che non c'è nessuna intenzione di salto e non sto prendendo rincorse, le dirò che avergli visto ieri battere il rigore in quel modo mi conferma una volta di più che ha grandi qualità, molte grandi qualità da leader, ma che, non dico il cervello, ma insomma i dintorni non sono proprio il massimo della vita, secondo me, perché dopo tutto quello che ha passato e non avendo neanche il piede sensibile di chi può permettersi il colpetto sotto, ai tempi di Boniperti un rigore del genere battuto da un giocatore della Juve significava multa, secondo me, e non erano tempi da buttare via, mi creda. Maurizio ha chiamato da Pescara, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Senta, dica. Una constatazione, volevo sapere il suo parere. Come ha detto Ventura, quest'anno forse si sta giocando meglio rispetto agli altri anni, e se forse anche merito degli arbitri che finalmente qua in Italia stanno adottando un metodo all'inglese, cioè quei falli mezzi e mezzi li lasciano passare e ne beneficia sicuramente lo spettacolo. È una buona riflessione, è una buona riflessione questa, Maurizio, perché in effetti sì, cioè no, non è l'unica non è l'unica spiegazione, ma soprattutto da 2-3 giornate a questa parte, da quando gli errori che all'inizio ci sono stati e anche gravi o molto gravi sono nettamente diminuiti, il campionato è arbitrato mediamente bene, ripeto, nelle uscite, nelle giornate più recenti, e in più con questa innovazione del lasciare andare fin dove è possibile. E una cosa velocissima, se possibile, sì. Un suo parere, se, visto che ci sono a volte anche in categorie inferiori, ma in tutto il calcio, nella mentalità italiana, esasperazione con striscioni a volte volgari, sì, e in Italia si potrebbe attuare come in Inghilterra, cioè proibire, non proibire, però cercare di non mettere nessuno striscione da parte di nessuna tifoseria. Cioè, visto che dopo ho capito. Anni passati, diciamo, io sostengo, Maurizio, sostengo da sempre che si riesce a vedere il calcio anche senza gli striscioni, si riesce a vedere il calcio che lo stadio è ancora più bello se non ha, se ha bandiere sì, se ha sciarpe sì, se ha striscioni no, perché comunque è un... io vedo che gli stadi inglesi, spagnoli, francesi, tedeschi sono magnifici e non hanno tracce di striscioni, quindi si vede che non è poi questo arredo così indispensabile, no, ma questa non è nemmeno una novità. Torno a spulciare i numeri. Allora, in 11 partite Eto'o ha segnato, in 11 partite con l'Inter quest'anno Eto'o ha segnato la bellezza di 12 gol, di cui 6 in campionato, 6 come Cavani, che a sua volta è a quota 14 gol in 14 partite stagionali tra campionato, Europa League e nazionale. Insomma, sono numeri persino imbarazzanti, per quanto Eto'o e Cavani sono decisivi per le rispettive squadre. Una curiosità invece che viene da Marassi è che la Sampdoria, che non vinceva dalla prima giornata, sì, ha rimontato la Fiorentina, ma Sampdoria e Fiorentina sono le squadre che hanno la classifica peggiore rispetto all'anno scorso, perché la Sampdoria ha meno 6 punti, la Fiorentina addirittura ha meno 9, che sono tanti dopo 7 giornate. Fausto in linea da Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo solo chiedere una cosa. Si è notato, parlava adesso di campionato tedesco-Germania, quindi che Werder Bremen e Stoccarda stanno ulteriormente ammodernando o rimodernando i rispettivi stadi, sì, avvicinando un po' le tribune al campo. Ma sono alieni? Arrivano da un altro pianeta o arrivano a 500 km di distanza, visto che da noi non si riesce a fare proprio assolutamente niente? E poi volevo... Vivono in paese civile. Allacciando sia questo discorso, visto che si sentono voci di un fantomatico arrivo di Messi che costa come uno stadio, cosa ne pensa lei? Grazie e buongiorno. Penso che soprattutto durante le soste azzurre i giornali bisogna riempirli, e soprattutto i giornali sportivi, ed è dura per tutti, no? E questo penso. Se poi vogliamo così trovare uno 0,1% di spiegazione possibile, c'è un discreto casino a Barcellona, uso questa parola volutamente perché è l'unica che fotografa bene la situazione, e in settimana arriverà l'amico e collega Bellinazzo del Sole 24 Ore a raccontarci esattamente cosa succede. Succede in estrema sintesi che il nuovo presidente Rosell ha chiamato in causa e denunciato il bilancio firmato dal suo predecessore Laporta, che è quello che guidando Barcellona l'aveva portato agli successi più straordinari. Questo potrebbe voler dire che con 400 milioni e 30 milioni di euro di passivo e in vista del fair play, insomma, il Barcellona potrebbe essere costretto a ridimensionare qualche programma. Il problema è che il fair play però bisogna farlo subentrare anche in Italia, e non vedo come la società più indebitata d'Italia dal punto di vista degli esborsi potrebbe affrontarne uno di questo genere. Grazie per oggi, in particolare a Fabio Cantadoni in regia e a Franco Piantanide in redazione. Appuntamento a domani. A tempo di sport.